Bismillahi Rahmani Rahim, seconda parte. Allahumma antal malikul haq alladhi la ilaha illa ant. O Allah, tu sei il vero re e non c'è divinità tranne te. Ya Allah, o Allah, ya Rahman, o sommamente misericordioso, ya Rahim, o clementissimo, ya Malik, o re, ya Quddus, o santo, ya salam, o pace, ya mu'min, o affidabile, ya muhaimin, o custode, ya aziz, o possente, ya jabbar, o irresistibile, ya mutakabbir, o grandioso, ya khaliq, o creatore, ya bari, o armonizzatore, ya musawwir, o modellatore, ya Ghaffar, o perdonatore, ya Qahhar, o irresistibile, ya Wahhab, o donatore, ya Razzaq, o elargitore, ya Fattah, o apritore, ya Alim, o onnisciente, ya Qabid, o restringitore, ya Basit, o allargatore, ya Khafid, o abbassatore, ya Rafi', o elevatore, ya Mu'izz, o potenziatore, ya Mudhill, o umiliatore, ya Sami', o ogni audiente, ya Basir, o ogni veggente, ya Hakam, o arbitro, ya Adl, o giustizia, ya Latif, o perspicace, ya Khabir, o bene informato, ya Halim, o indulgente, ya Azim, o sublime, ya Ghafur, o perdonatore, ya Shakur, o riconoscente, ya Ali, o altissimo, ya Kabir, o grandissimo, ya Hafiz, o conservatore, ya Muqit, o alimentatore, ya Hasib, o conteggiatore, ya Jalil, o glorioso, ya Karim, o generoso, ya Raqib, o vigilante, ya Mujib, o esauditore, ya Wasi', o immenso, ya Hakim, o sapientissimo, Yawadud, o amante, Yamajid, o magnifico, Yabaith, o risuscitatore, Yashahid, o testimone, Yahaq, o verità, Yawakil, o protettore, Ya Qawi, o potentissimo, Ya Matin, o fortissimo, Ya Wali, o amico, Ya Hamid, o laudabile, Ya Muhsi, o contatore, Ya Mubdi, o originatore, Ya Mu'id, o ripetitore, Ya Muhyi, o datore di vita, Ya Mumit, o datore di morte, Ya Hayy, o vivente, Ya Qayyum, o sussistente, Ya Wajid, o trovante, Ya Majid, o splendido, Ya Wahid, o unico, Ya Ahad, o unipersonale, Ya Somad, o ente, Ya Qadir, o onnipotente, Ya Muqtadir, o irresistibile, Ya Muqaddim, o avanzatore, Ya Muakhir, o ritardatore, Ya Awwal, o primo, Ya Akhir, o ultimo, Ya Zahir, o manifesto, Ya Batin, o occulto, Ya Wali, o sovrano, Ya Muta'ali, o eccelso, Ya Barr, o pietoso, Ya Tawwab, o facile al perdono, Ya Mun'im, o datore di grazie, Ya Muntaqim, o vindice, Ya Afuwun, o indulgente, Ya Ra'uf, o compassionevole, Ya Malik il Mulk, o titolare della regalità, Ya Zal Jalali wal Ikram, o titolare della maestà e della glorificazione, Ya Rabb, o Signore, Ya Muqsit, o giusto, Ya Jamia, o adunatore, Ya Ghani, o ricco, Ya Mu'ti, o donatore, Ya Mania, o impeditore, Ya Dar, o danneggiatore, Ya Nur, o luce, Ya Hadi, o guida, Ya Badia, o creatore, Ya Baqi, o eterno, Ya Warith, o erede, Ya Rashid, o intelligente, Ya Sabur, o paziente, Ya Sadiq, o veridico, Ya Sattar, o protettore,